Allora torniamo in diretta, siamo in collegamento adesso con Bologna, un'altra piazza studentesca in questa mattina in cui al Senato è in discussione il disegno di legge Gelmini, una piazza movimentata. Pronto, ci sentite? Sì, vi sentiamo. Allora, ci devi raccontare un pochino cosa è successo stamattina a Bologna e cosa stai facendo adesso? Sì, dopo insomma il corteo che è stato ieri sera, partito spontaneo dall'università, c'era l'appuntamento di questa mattina con studenti medi e universitari. 1000-2000 studenti in un corteo spontaneo, insomma non autorizzato, che si è ritrovato al centro città e che insomma sulla pratica del blocco, sia come elemento di rifiuto della riforma, ma anche come blocco nel senso di apertura di spazi, di autonomia e di libertà, ha praticato come primo passaggio un blocco del centro e dei viali e poi è andato immediatamente verso la stazione. All'inizio cercando di entrare da un ingresso laterale, che però si è ritrovati sbarrati, si è cercati di sfondare quell'ingresso, non ci si è riusciti, però c'era veramente una grandissima determinazione oggi in piazza, quindi ci si è rimossi tutti in corteo, si è arrivati all'ingresso principale dove la cella era schierata e passo dopo passo ci siamo avvicinati all'ingresso e c'è stata una prima carica della Celere veramente significativa, però una risposta anche determinata della piazza, una seconda carica ancora più violenta e una seconda capacità veramente significativa di tenere la piazza, quindi una grande determinazione da parte degli studenti questa mattina. A quel punto ci si è rimossi in corteo con un lancio fitto di uova e fumogeni sulla polizia. In questo momento siamo ancora in corteo e stiamo continuando a bloccare i viali in questo corteo non autorizzato e dirigendoci nuovamente verso il centro, quindi sicuramente un segnale veramente importante questa mattina dopo le settimane appena trascorse, che insomma grandi cortei, occupazioni di scuole, di università, cortei spontanei, insomma la giornata di oggi sicuramente ci dà un segno di qualità, di determinazione e di forza che non era assolutamente scontato, che ci fa andare anche oltre quello che può essere il DDL Gelmini per continuare insomma con la crescita e la radicalizzazione di un movimento studentesco che si sta radicando, sta facendo passi avanti e dimostra con la piazza di stamattina veramente una gran tenuta, una gran forza. Va bene, noi vi ringraziamo, vi facciamo un in bocca al lupo per proseguire la giornata e ci andiamo magari appunto a risentire più tardi. Va bene, grazie a voi. Ciao.